Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1843. Cento arresti a Salerno, in Emilia-Romagna fallisce il tentativo di rivolta. Il regno delle due Sicilie annette Lampedusa, Ferdinando l'ha comprata per 12.000 ducati. Una nuova opera di Verdi accende gli animi, si tratta dei Lombardi alla prima crociata. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura l'accentuarsi della tensione politica in molte zone della penisola italiana. A Salerno la polizia del Regno delle Due Sicilie ha proceduto all'arresto di un centinaio di persone sospettate di attività sovversive. Le forze dell'ordine hanno anche trovato collegamenti con cellule di cospiratori nello Stato Pontificio. Nel bolognese vi sono state delle rivolte, in effetti, guidate dai fratelli Saverio e Pasquale Muratori. I ribelli sono riusciti a tenere testa ai poliziotti del Papa nella zona di Savigno, ma sono stati sconfitti. Intanto gli esuli italiani, e non solo loro, dibattono proprio sul ruolo del Papa e del cattolicesimo. L'opera è intitolata «Del primato morale e civile degli italiani». E sta facendo discutere. A scriverla e a pubblicarla a Bruxelles, dove si trova in esilio, è stato l'ex cappellano di Carlo Alberto di Savoia, il sacerdote filosofo Vincenzo Gioberti. Nel libro sono delineati i presupposti teorici del programma politico che qualcuno definisce già neoguelfo. Gioberti è convinto, come Mazzini, che l'Italia abbia una missione da portare a termine, ma a differenza di Mazzini ritiene che questa sia di natura religiosa e che la libertà d'Italia sia intrinsecamente legata alla presenza nel paese della sede papale. Non è la prima volta che la folta comunità degli esuli italiani fa rumore in giro per l'Europa. Tralasciando Parigi, dove il salotto della nobildonna patriota Cristina Trivulzio è una tappa d'obbligo per tanti personaggi, la Svizzera è un altro crocevia inevitabile dei proscritti d'Italia. Gioberti c'è stato un annetto, Mazzini di più, dal 1833 al 1837, poi è stato costretto a fuggire a Londra. Qui continua la sua opera cospirativa, ma il governo inglese, che pure è abbastanza tollerante, lo tiene sotto stretta sorveglianza. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Da quest'anno Lampedusa cambia padrone. Non sono più i principi Tomasi che hanno dato il nome all'isola, ma il regno delle due Sicilie. Il re Ferdinando II l'ha acquistata infatti per 12.000 ducati. Ne vuole fare una colonia agricola, nonostante sia più vicina al Nord Africa che alla Sicilia stessa. Vi sono stati già trasferiti almeno 120 coloni. E ancora Giuseppe Verdi a far discutere i milanesi. Dopo il successo del Nabucco, la sua nuova opera, I Lombardi alla Quarta Crociata, è stata presa da molti attivisti come un nuovo manifesto politico, anche se forse né la volontà del maestro né quella del librettista, ancora una volta Temistocle Solera, era questa. In molti, specialmente i patrioti, si sono trovati a canticchiare il coro che sentite di sottofondo, O Signore dal tetto nativo. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Vi ricordiamo l'appuntamento di Torino. Saremo al Salone Internazionale del Libro, al padiglione numero 2, nella giornata di giovedì prossimo alle 13. È previsto pubblico e quindi, se verrete, ne saremo felici. Potete scriverci a gazzettino@radio24.it, visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo sul nostro blog. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.